La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Mio figlio si è sempre approfittato di me e di suo padre, perché è nato tardi, quando non ci speravamo più. Non è di fondo un cattivo ragazzo, ma è molto viziato da noi e dai nonni paterni. Non ha mai studiato, rimediando sempre all'ultimo con ripetizioni molto costose e senza che, ahimè, siamo per questo mai riusciti a negargli niente, neanche le vacanze in piena bocciatura. L'ultimo anno, maturità classica, sembrava rinsavito. Ci ha fatto tanti bei discorsi. Andava sempre a studiare da un amico, ha cominciato a riportare dei bei giudizi, però sempre evitando che andassimo a parlare coi professori, perché diceva: «Si è instaurato un rapporto personale e voi me lo rovinereste». Finché sono venuti questi benedetti esami. L'ho visto molto teso, l'ho incoraggiato. Torna dagli iscritti, racconta. È molto inquieto. Poi vengono gli orali. E lui sparisce di casa. È sera e ancora non è tornato. Telefoniamo a tutti gli amici, avvertiamo la polizia. Alla fine lo scoviamo da una compagna di scuola. Scoppia a piangere. Mi racconta la verità. Che agli esami non si è nemmeno presentato, che non ha mai studiato. Ora dovrà ripetere l'anno. Quello che ti voglio chiedere è: come faremo ora a cambiare metodo? Quale sarebbe una punizione esemplare? Assunta e suo marito. Ah sì, sì, certo che ti posso dire la punizione esemplare. Pane e acqua, nello stanzino buio, mai più vacanze, niente cinema per 10 anni, senza sigarette per sempre, 10 frustate al mattino e una 15 alla sera, poi a seconda di come uno si è comportato. La domenica, lavori forzati, lavori socialmente utili, qualsiasi cosa, purché si fatichi molto. Oh, naturalmente sto parlando di voi due. Tu e tuo marito, non del ragazzo, che lo avete già punito abbastanza facendogli da genitori. Ti leggo un pezzo di un libro. Quando, in un giorno di giugno, si apprese la raggelante notizia della mia bocciatura, la prima nella storia della mia famiglia, ci fu poco da ridere per tutti. Poche parole per me e nessun diritto. Venivo assunto come lavorante al distributore di benzina di Zuvanni, senza stipendio. Il fastidio della mia presenza era già un grosso incomodo per il gestore e di certo anche per gli altri lavoranti, cui non sarebbe stato tolto niente, neanche le mance. Uno che era somaro e sfaticato lo rimaneva sempre, anche da benzinaio. È un libro di Vittorio Caronia che si intitola Nella vita è un'altra cosa, pubblicato nel 1995 da Di Giacomo Editore, 16 anni fa, e si riferisce a un tempo molto più antico, ovviamente a 40 anni prima. Ed era la vecchia famiglia, era: non sei buono a studiare? Allora fammi vedere se sai fare qualcos'altro, magari impari un mestiere, che non è mica da buttare via. Allora io vi consiglio un salto indietro per ricordarvi come poteva essere la famiglia, perché voi non lo siete, voi siete una compagnia di storditi. Tuo figlio non è un figlio viziato, è un figlio abbandonato, è un figlio disgraziato, così povero che non può contare nemmeno su 2 sberle. Questo ragazzo è 2 volte figlio unico, perché ha addosso ben 4 genitori, cioè padre, madre, nonna e nonno. Ma è possibile che, standogli sopra in 4, abbia potuto prendervi in giro così grossolanamente? Ora, essere poliziotti dei figli è un'abitudine pessima, ma fregarsene in questa maniera è ancora peggio. Non gli avete mai fatto una domandina in tanti anni di scuola? Ma non so, una cosa di italiano, di storia, ma non per controllarlo, per il piacere affettuoso di sapere che cosa stava imparando. Ed è possibile che abbia potuto non presentarsi agli esami, fingere sempre che andava a studiare dall'amico, senza che voi ne abbiate avuto il minimo sospetto? Questa scena del Red Rationem che tu racconti, quando finalmente lo scovate perché è scappato e lui si mette a piangere, è tragica, è immensa, perché questo ragazzo, nella sua ignominia, fa quasi pena, scoppia a piangere, confessa, ed è come se in questo pianto clamoroso, in questo pianto chiassoso, scoppiasse il bubbone non solo delle sue bugie, ma anche della vostra incapacità. I genitori sbagliano tutti, severi e meno severi, ma i deboli più di tutti. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Non sono un carattere sospettoso e il fatto che lui abitasse in un'altra città non mi lasciava spazio alla gelosia, perché appena poteva correva da me e mi copriva di piccoli regali importanti, cioè le cose che mi piacevano. Il sesso, non facevamo in tempo ad arrivare a casa mia. Poi scopro che è fidanzato ufficialmente nella sua città e lui mai nemmeno una parola. Quello che mi sconvolge e che mi faceva sentire la sua unica donna, il suo unico pensiero, la sua unica emozione. Come si può essere, dimmi, così doppi, così ipocriti, così... Hai messo tre puntini nel finale, non trovando l'ultimo aggettivo. Te lo suggerisco io. Così sincero. Anche una volta conosciuto uno così, aveva questo dono divino di farti credere che eri l'unica. E lo faceva credere a tutte. Io non credo perché fossi un ipocrita, perché era sincero. Poi abbiamo scoperto che eravamo in tre, che ci conoscevamo pure. Naturalmente quando l'abbiamo scoperto lui ha avuto a subire il disprezzo, il vituperio e poi l'abbiamo mollato tutte, indignate. Adesso che sono passati tanti anni, io ci ripenso a questo qua e un po' gli sono grata perché aveva questa sua capacità di essere totalmente, corpo e anima, con la persona con cui era in quell'istante. Io non mi sono mai sentita trascurata o disamata. Uomini fedelissimi non erano così presenti. E se ci rifletto, appunto, adesso che tutto è purificato dal tempo, alla fine non è vero che ci avesse truffato. Non ci aveva imbrogliato neanche un po'. Sì, aveva omesso. Anzi, per un lungo periodo ci aveva reso tutte e tre orgogliose e felici. Ora, se lui, il tuo intendo, è un mostro, anche lui lo è in senso positivo. È un'eccezione da rispettare. Tu pensa che la maggior parte degli uomini non riesce a bastare neanche a una sola donna. E questi maratoneti del sentimento, questi zelig del sesso, questi cari uomini così disponibili che poi ci perdono la vita perché uno che ce n'ha tre chiaramente non fa altro, secondo me non bisognerebbe mai scoprirli, accidenti, perché alla fine si passerebbero degli anni meravigliosi. La guardiana del faro. L'amore prende tante forme. L'amore prende tante forme e ci dà anche tantissime paure. Per esempio, quando abbiamo questi slanci del cuore, che siamo ancora ragazzini, diciamo: mamma mia, ma magari mi piacciono gli uomini, magari mi piacciono le donne, cosa mi piace? Ecco, c'è qualcuno che più di due secoli fa non si è fatto questi problemi, ed è Vittorio Alfieri. Vittorio Alfieri ci racconta il suo primo amore nella sua biografia Vita di Vittorio Alfieri, scritta da sé medesimo. Siamo ad Asti nel 1755. Vittorio ha 7 anni. Lui ha una grande amica, una piccola compagna di giochi, che è la sua allegria, sua sorella Giulia. Ed un tratto gliela tolgono, un tratto mandano la sorella in monastero. La separazione gli è insopportabile. Il mondo si svuota. Per lui è il primo dispiacere d'amore. E scrive, e speculando poi dopo su quegli effetti e sintomi del cuore provati allora, trovo essere stati quegli stessi che poi appresso provai quando, nel bollore degli anni giovanili, mi trovai costretto a dividermi da una qualche amata mia donna. Dalla reminiscenza di quel mio primo dolore del cuore, ne ho poi dedotta la prova che tutti gli amori dell'uomo, ancorché diversi, hanno lo stesso motore. Ma qui mi occorre notare un'altra particolarità, assai strana, quanto allo sviluppo delle mie facoltà amatorie. La privazione della sorella mi aveva lasciato addolorato per lungo tempo. Però presto viene qualcosa che addolcisce il suo male. Lui è un aio, illetterato, ma di buon cuore, che si chiama Don Ivaldi, un ignorante assoluto. E lo vede così triste e per divagarlo lo porta a messa tutti i giorni alla chiesa del Carmine. E alla chiesa del Carmine, in un colpo solo, il piccolo Alfieri si innamora di tutti i fraticelli del coro. Questi ragazzini gli appaiono dietro le nuvole dell'incenso, nella musica della messa cantata. Sono ornati di berletti bianchi, hanno i turiboli che oscillano e questa visione lo rapisce come una mano che lo sollevi. Dalla partenza della sorella, lui non ha più visto un volto di ragazza e racconta quei loro visi giovenili e non dissimili da visi donneschi avevano lasciato nel mio tenero inesperto cuore a un dipresso quella stessa traccia e col medesimo desiderio di loro che mi aveva già impresso il viso della sorella. E questo, insomma, era amore. Come poi pienamente conobbi e me ne accertai dopo, perché di quanto io allora sentissi o facessi, nulla affatto sapeva ed obbediva al puro istinto animale. Ma questo mio innocente amore per quei novizi giunse tanto oltre che io sempre pensavo ad essi e dalle loro diverse funzioni. Ora mi si rappresentavano nella fantasia coi loro devoti ceri in mano, ora coi turiboli incensando l'altare, e tutto assorto in codeste immagini trascurava i miei studi ed ogni occupazione o compagnia mi noiava. Ma specialmente lo noiava padre Ivaldi, che tanto poco sapeva, tanto più insegnava, e non lo lasciava un momento solo per istruirlo, ovvero per trasmettergli la sua ignoranza. Per fortuna che poi Alfieri studierà da solo. Vittorio ormai, per essere lasciato in pace nella sua fantasticheria, vive per il momento di andare a letto. Ecco, finalmente lì, prima di dormire, può abbandonarsi in piena letizia e tormento a evocare quei piccoli seduttori, senza che nessuno lo disturba o gli voglia insegnare qualcosa. Fortuna gli arride. Don Ivaldi, il prete, si ammala e Vittorio finalmente per qualche giorno può intrattenersi in spirito con i suoi ignari amanti. Si bea della loro visione. Poi si accorge, come tutti gli amanti, che non gli basta più. Lo pungola un bisogno più concreto. È tale l'impeto per quell'amore collettivo che cerca un modo per renderlo manifesto. Allora, prima pensa di scrivere una lettera a questi ammalianti novizi, però si accorge che non sa nemmeno i loro nomi. E poi come dargliela e anche come spiegare ciò che sente. Ed ecco la passione gli suggerisce l'idea per rendere a questi ragazzini in segreto un omaggio struggente. Lo faccio raccontare da lui. L'aver sentito alcune volte con qualche disprezzo articolare la parola frate, e con rispetto ed amore quella di padre, cercai nei due vocabolari latino e italiano la parola frati, e cassata in ambidue quella parola vi scrissi padri, così credendomi di nobilitare coi novizietti che io vedeva ogni giorno, con nessuno dei quali però aveva mai favellato e da cui non sapeva assolutamente quello che io mi volessi. E con queste correzioni, fatte grossolanamente col temperino e la penna, le nascosi poi sempre al maestro, che non se ne avvide mai. Adesso, finalmente, grazie a questo atto concreto, Vittorio ha un legame tangibile con loro. E quando va in chiesa li guarda con aria d'intesa, e poi a casa si rilegge la parola nel vocabolario e sorride in silenzio di questa sua astuzia cavalleresca. Però, come per ogni droga, il bisogno è crescente. E presto non la pagherà più neppur quello. Adesso vorrebbe accostarli, vorrebbe giocare con loro, conoscerli, darsi a conoscerli, magari chissà, qualche carezza nel gioco. Ma questo non è possibile. E allora non vale più nulla la vita. Questi si fatti effetti d'amore, ignoto intieramente a me stesso, ma pure tanto operante nella mia fantasia, nasceva quell'umore malinconico che a poco si insignoriva in me. E tanto si insignorisce che Vittorio tenta ingenuamente il suicidio. Lui ha sentito parlare confusamente della cicuta che avvelena e fa morire. E allora, in un momento di languore e di disperazione d'amore, si butta nel prato di casa a mangiare l'erba, la strappa a ciuffi, ne fa una scorpacciata selvaggia. Mi spinsi avidissimamente a mangiare quell'erba, figurandomi che in essa vi dovesse essere anche della cicuta. Ma la cicuta non c'era. e quindi se la cavò con una colica e con la scoperta d'essere pieghevolissimo agli avvisi amorevoli. Il dolore più a punta però deve ancora venire. Lui ha combinato qualche marachella infantile, qualche stupidaggine, e allora gli viene combinato il castigo della reticella, ovvero sarà mandato a messa con la reticella da notte in testa. Di quante punizioni mi si potessero dare quella che smisuratamente mi addolorava, a segno di farmi ammalare, giacché io temeva d'esser visto così dagli amati novizi, e questo mi passava veramente il cuore. Or mira, lettore, in me, omicino, il ritratto tuo e di quanti anche uomini sono stati o saranno, che tutti siamo pur sempre, a ben prendere, bambini perpetui. Quando paramuccio mi amore te felice carafon. Mondo paparazzi mi amore ci caferri passo. Il piccolo orgoglioso si umilia e scongiura la famiglia, si umilia per un orgoglio più grande, grida, lacrima, niente, il castigo rimane. E allora si finge cieco a se stesso, sperando con ciò di render ciechi anche gli altri. Oimè, qual dolore fu il mio quella notte, che io mi credeva dover essere l'ultima della mia vita, la notte prima in cui lui andrà in giro con la reticella. Non mi ricordo mai poi di averne passata una peggio. Venne al fin l'ora. Irreticellato, piangente e urlando mi avviai, stiracchiato dal maestro per il braccio e spinto innanzi dal servitore per di dietro, e camminando tacito, ben rasente al prete Ivaldi, sperai di passare inosservato sotto il gomito del talare maestro, al di cui fianco appena la mia staturina giungeva. Arrivai nella chiesa, guidato per mano come orbo ch'io era, che infatti chiusi gli occhi, né aprendoli poi, e tornai a casa con la morte nel cuore, credendomi disonorato per sempre. Non volli a lungo mangiare, né parlare, né studiare. Essi m'avevano veduto. Altri amori verranno, totali, tremendi. Niente di nuovo per Vittorio Alfieri. Senza aver letto il primo amore, perché Leopardi ci metterà ancora più di 40 anni a nascere, dal dolore per i piccoli padri già tutto gli era chiaro. Oimè, se questo è amor, come i travaglia. Questo abbricato, tanto amorcio che canite il carosà. La guardiana del faro. Voglio salutare un uomo, si chiamava Cico. Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Ecco, che cosa ha in comune questa canzone di Paolo Conte con Cico? Perché Cico era Cico, come Max era Max. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Veramente si chiamava Pierluigi, ma fin da piccolo lo chiamavamo Cico. Non si sa perché. E Cico era il nome che urlavano i tifosi durante queste sue parate storiche, quando poi è diventato portiere della squadra di Umbertide, il paese umbro dove era nato. Lui, appena nato, già ebbe un nemico, un rivale, ed era Robertino. E Robertino cercò di accecarlo quando aveva 3 mesi. Robertino era il piccione di sua madre ed era geloso come un uomo. Era invecchiato in casa e aveva questo becco di ferro che hanno i vecchi piccioni. Era geloso anche del marito, ma con lui si limitava agli agguati, si metteva in un angolino in corridoio. Quando passava il padre di Cico, si appostava, pa, e gli beccava le caviglie. Aspettava, era molto intelligente, aspettava che lui avesse messo le pantofole, le ciabatte da casa. Ma con Cico fece peggio. Lo trovò una volta solo nella culla, si avventò sulla sua faccia, corse la madre e quando arrivò, dopo pochi istanti, ma già il bambino era una maschera di sangue, lei acciuffa il piccione prima che arrivasse agli occhi, questi occhi color smeraldo con delle pagliuzze d'oro, e così lui è stato salvo. Era arrivato Cico, terzo dopo due sorelle, festeggiatissimo in quanto maschio, ed era il preferito della madre, che quando passavano le figlie diceva sempre ste femminacce, ed era il preferito, ma non il più amato, perché la madre aveva questa disgrazia, che non amava nessuno. Però mica lo sapeva, lei si credeva la madre migliore del mondo, per lei l'amore era sacrificio, rinfaccio, possesso, controllo e schiaffi quanti riusciva a darne. Il momento più felice di questa donna era quando riusciva a lasciare in faccia ai figli le cinque dita, quella traccia rossa come il segno di Satana. Oggi è quasi incomprensibile perché nei bambini moderni non vedo mai questo segno, oggi si chiamerebbe il telefono azzurro, però chi è stato piccolo negli anni 50 girava spesso con questa impronta della mano materna. E Cico da ragazzino si fidava così poco di essere amato che nascondeva delle grandi provviste di frutta sotto il letto, che poi andava male e la mamma gli lasciava le cinque dita. La nonna invece lo odiava proprio perché era maschio, portatore di disordine, portatore di peccato. E quando in TV apparivano le gemelle Kessler, lei gli parava davanti agli occhi un canovaccio perché non vedesse. Anche lei le voleva accecare in modo diverso da Robertino. E fu così che Cico divenne precocemente un miscredente, anzi direi un illuminista. E un giorno che aveva un'interrogazione, la nonna disse: «Oh, Coco, Elmi Coco, prega il Signore che ti illumini!» E lui sì, con la lampadina. Cico diventò bellissimo, somigliava a Chekhov, con quegli occhi che il piccione non era riuscito a beccare. Era chiuso, però era cordiale, molto spiritoso e un po' tenebroso. Insomma, faceva innamorare. Era un sognatore, scriveva molto bene, però i genitori non si fidarono a fargli fare gli studi classici perché dice: «Ma questo chissà se avrà la costanza poi di andare all'università», e lo obbligarono a studiare da geometra. Invece lui si laureò di sua volontà in sociologia a Trento, negli anni caldi, negli anni della grande speranza, quando fu bello essere giovani. E nelle foto di allora la sua bellezza da Chekhov vira un po' verso Che Guevara. Ebbe una ventata di passione politica, ma passò presto. La sua vera passione era l'India. E allora da ragazzo comincia a partire da solo e si sentiva un po' Allen Ginsberg. Quando era in India soffriva la fame con voluttà, cercava posti di saggi, ne andava fiero, perché poi ci avrebbe sbalordito al ritorno. Tornava magrissimo. Infatti una volta io non l'ho riconosciuto. Gli ho aperto la porta e ho visto questo vestito da indiano, con la barba fino alla vita, 20 kg di meno, io desidera. E lui contento: «Sono io, che soddisfazione!» Scoppiava d'orgoglio e ci raccontava dei templi di Benares, di Kathmandu, dei monaci della Ladakh, delle grotte di Ajanta, delle sculture di Ellora. Poi, dalla Londra degli anni 70, invece, tornava con dei cappottoni militari presi a Portobello Road, dei cappottoni blu, aveva questo fascino micidiale, sembrava il conte Vronsky in Anna Karenina, però lo sguardo era meno sicuro, era sempre venato dalla paura del rifiuto. Sapeva scrivere, bisognava pure inserirsi nella vita, e così ebbe un ottimo esordio come giornalista. Lavorò un paio d'anni all'Avanti, fece due film come sceneggiatore, ma l'idea della carriera non gli andava giù. Gli repugnava l'idea di questo misurarsi, di entrare nella grande competizione. Non voleva integrarsi, come si diceva allora. Poi si è dimenticata questa parola, si è dimenticato anche il concetto. Continuava a studiare l'arte indiana e appena poteva tornava ai suoi templi. Ed eccolo in India nel 1981, c'è il grande incontro, incontra Marta. Marta stava con un altro, lo lasciò subito e si mise con lui. Di Sarzana, di stirpe contadina, piccola piccola come una vietnamita, fortissima anche fisicamente, con una mano ti solleva un armadio, e a un certo punto venne molto comodo, perché chi rinuncia alla sicurezza per l'avventura poi deve lavorare 10 volte di più degli altri. E adesso che erano insieme, il gioco dell'India, il gioco dell'arte indiana diventò un lavoro. Eccoli che viaggiano e studiano attraverso il Rajasthan, il Gujarat, la costa del Tamil Nadu, in Kerala, e diventano esperti di scultura e pittura indiana, e diventano mercanti d'arte. Portano in Italia oggetti da collezione, elementi architettonici, statue di legno e di marmo. Compravano queste bellezze che poi arrivavano in Italia su lente navi. In Italia avevano un casale nella campagna romana, in mezzo a un boschetto di pini e di eucalipti, e lo avevano trasformato in una reggia di Ajmer, disseminata dentro e fuori di sculture di Ganesh, leggi con scritte in sanscrito, bifore di pietra traforate, letti a dondolo che spuntavano dal giardino insieme a questi cavalli di legno, alle facce di Shiva, alle statue di Buddha e ai cani. Quelli veri però, amatissimi, amicizia perfetta per un introverso. Marta e Chico stavano sempre in casa e quando uscivano andavano in India. E ci restavano dei mesi a cercare le cose belle. Una volta mi mostra un secretaire e io gli chiedo: ma perché lo hanno scolpito anche sotto? E lui: perché in India credono che Dio vede dappertutto. Lui era totalmente laico, lo voglio specificare, non c'era un'ombra di New Age né di minchiate con simili. A Marta intanto toccano delle disgrazie spaventose. Muoiono tutti i giovani uomini della sua famiglia uno dopo l'altro. Morti precoci, ma anche quelle tardive, molto tragiche. Però lei teneva a testa tutto. Lei era un piccolo titano, perché lei aveva Chico. Lei sola conosceva quest'uomo così sensibile, così orgoglioso per troppo pudore, che era marito, amico, socio, amante, figlio. Sono stati compagni di dolore e di gioco per 31 anni. E poi, la mattina del 30 settembre, pochi giorni fa, Chico se n'è andato nel sonno e si è portato via il mondo. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max. E lì ho capito qual era la vera paura della donna che nella poesia di Tagore dice: non partire, mio amore, senza avvertirmi. Ho paura di perderti mentre dormo. Non partire, amore mio, senza avvertirmi. E dopo che è morto lei gli diceva: amore mio, sei bellissimo. Oppure gli diceva: stronzo, infame, te ne sei andato, mi hai lasciato. Al funerale il prete ha detto che bisognava rallegrarsi perché Dio sa quello che fa. Ma io a Dio gli vorrei fare una domanda: ma perché con tutte le coppie che si odiano, che si augurano la morte dalla mattina alla sera eppure stanno insieme, lui si va sempre a ricordare di quelli che si vogliono bene? Perché va sempre a dividere quelli che erano un solo respiro? Anch'io sono stata innamorata di Chico. Chico era mio fratello. Quanto abbiamo litigato da ragazzi, con una violenza, con una passione, e un po' anche da vecchi. L'ultima volta l'ho visto nella stanza mortuaria dell'ospedale di Albano, una discarica, un luogo ignobile, rovi, immondizie, una mancanza di rispetto straziante per i vivi e per i morti. E poi per farlo cremare al cimitero di Prima Porta, dove con un tuffo al cuore scopri che la stessa ditta che si occupa di smaltire le immondizie si occupa anche delle persone morte. Forse è razionale, sicuramente è atroce. E li devi lasciare lì, in mezzo ad altri morti che aspettano il loro turno. E non è che ti diano una data. Un giorno ti chiameranno, imperscrutabili come la morte, come San Pietro, allungando lo strazio, prima che Chico abbia la grazia di essere ridotto in cenere. E cerchi, mentre sei lì in quei posti della non pietà, di ricordartelo quando faceva i suoi tuffi da portiere come il palude di Pennacchi e si buttava anche nel fango. A proposito, io giorni fa ho detto che palude è un talismano contro la morte, ma non è vero, giusto se mi risuscita mio fratello. È un libro di bellezza commovente, è un capolavoro del vero umorismo, ovvero quello che fa piangere. Ma io vorrei Chico. Nella bara gli amici gli hanno messo una canna in memoria delle fumate giovanili. Lui, che aveva un grande spirito artistico, adesso possiamo dire che la sua opera d'arte è stato l'amore con Marta. A Marta vorrei dedicare la poesia di Oden, famosissima, Blues in Memoriam, così famosa che un amico di quelli fastidiosi, molto attenti alla moda, mi ha detto: uffa, ancora, ma è troppo famosa, c'era persino in un film ormai vecchio anche quello, 4 matrimoni e un funerale. Troppo famosa, ma credo non abbastanza. A me sembra molto più bella del Requiem Eterni. Fermate gli orologi, tagliate il telefono, Tenete buono il cane, che stino zitti i pianoforti, e al suono cupo del tamburo portate fuori le bara. Cominci il funerale. Lui era il mio nord, il mio sud, il mio est, il mio ovest, la mia settimana di lavoro, la mia domenica di festa, il mio mezzogiorno, la mia notte, la mia parola, il mio canto. Pensavo che questo amore fosse eterno, mi sbagliavo. Le stelle non servono più, staccatele ad una, smontate il sole, imballate la luna, strappate il bosco, svuotate il mare. Niente di buono potrà più arrivare. La guardiana del faro. Poco fa ho letto la poesia di Oden, Blues in Memoriam, in memoria appunto di mio fratello Chico, e dedicato a sua moglie Marta. Amatami, amatami, dietro a quell'auto nella sua scena. Amatami, amatami, qualunque cifra, anche una follia. Adesso vi leggo un brano dal Vangelo secondo Maria. L'ho scritto da giovane, pensando lui, perché sia Asael che Abner, i cugini di Maria di Nazareth, erano Chico. Maria di Nazareth, ragazzina, rimpiange i suoi cugini, i suoi compagni di gioco, che sono partiti e non ne ha saputo più nulla. Se almeno fossero qui Abner e Asael, i miei cugini. Con loro da piccoli sognavamo i paesi lontani. Sdraiati all'ombra dell'orto nei meriggi di caldo, guardando il cielo, Abner diceva che un giorno saremmo partiti. Un giorno Abner salì sull'albero e gridava: «Io sono il popolo orgoglioso di Babele e sfiderò il cielo». Asael dal basso gli rispose: «Io sono Dio e farò crollare la torre». E con la fionda colpì Abner alla testa. Gli uscì parecchio sangue. Dopo ci chiesero com'era accaduto e noi zitti, tutti e tre d'accordo, per non tradire i nostri giochi. Per punizione non ci davano più i dolci, ma a noi tre bastava scambiarci un'occhiata perché i dolci diventassero una piccola cosa. Con i miei cugini tendevamo a volte una corda tra gli ulivi ed essi cercavano di stupirsi con esercizi difficili. Abner diceva che avremmo fatto i soldi alle fiere finché non si arrivasse al mare, dove ci saremmo imbarcati. Nel gioco della rappresentazione viaggiante a me facevano fare il pazzo. Con una maschera di foglie apparivo d'un tratto, guastando i loro numeri d'equilibrio. Asael si spaventava. Abner scoppiava a ridere. Asael era bello come la notte. Abner è il sole. Dove passa, i vecchi benedicono la sua faccia. Abner, narrando le sue storie, non mi guardava che rapidamente e quasi di nascosto. Apprezzava il mio silenzio, la delicata paura che lega il narratore a chi lo ascolta. Abner andò marinaio, Asael mercante. Ho aspettato a lungo che apparissero sulla collina insieme, come quando cavalcavano un tronco sul fiume. Ma ora forse non voglio che tornino mai a contraddire il destino che ho per loro immaginato. Asael lo avrà divorato la vita per il troppo timore. Abner lo avranno fatto re di qualche posto simile all'Eden, dove tutti i frutti si potranno mangiare. Poi un giorno all'improvviso i suoi cugini tornano. Di nascosto guardo lontano e sento le parole del profeta sospese nell'aria, come se da un momento all'altro dovessero avverarsi. Se vede una carovana, un paio di cavalieri, una carovana di asini, una carovana di cammelli, aspetto qualcosa. E all'orizzonte apparvero due cavalieri. Muovevano da punti opposti. Non si scorgono ancora tra loro, ma io che li vedo entrambi capisco che dovranno per forza incontrarsi. Si incontrarono infatti al sommo della collina e nonostante fossero lontani io indovinavo i loro gesti commossi. Uno dei due cavalli cedette come per l'emozione. L'altro cavaliere prese il compagno in sella con sé. E lentamente avanzano, in quel tramonto quasi nero, all'inizio di Adar, quando il vento è cattivo, il vento che tutti e tre ci faceva battere il cuore. Abner, Asael, Asael, Abner, non urlare, dice mia madre, ti sentiranno tutti, è quello che voglio, che mi sentano fino agli imperi più remoti, per far sapere che Asael e Abner, i miei cari cugini, sono tornati. Che bel tipo sei, che romanzante meraviglia. Abner è cieco, Asael troppo mutato. Con me sono freddi, non parlano. Cenniamo stancamente, senza una parola. E i nostri viaggi, amici, i vascelli, i misteri, le bestie paurose. Dove sono, Abner, i tuoi racconti? Li guardo, muta di pena, così ridotti per aver rifiutato i miei impareggiabili doni. All'uno la morte, all'altro l'immortalità. Per poter piangere senza ritegno, dopo vado dietro la casa. La luna e l'ombra degli ulivi mi conducono al luogo dove un tempo giocavamo. Dal tronco d'un ulivo una faccia malvagia mi balza incontro, grido. Asael si toglie la maschera di foglie. Seduto a terra col suo bastone c'è Abner. Ti aspettavamo. Finalmente possiamo manifestarci l'amore che per tutta la sera abbiamo dovuto frenare. Ci abbracciamo stretti. Abner con le mani cieche tocca il mio viso, dice: ti sei fatta bella, Maria. Li scongiuro di dirmi tutto del viaggio. Come da bambini prendono a narrare. Ma ora che il tempo è passato, Abner in Asael è trasmigrato e Asael in Abner. Asael racconta come faceva Abner da ragazzo e ora è Abner che tace, dallo splendore di quel gioco rimanendo in ombra. E quando parla è solo per contraddire il cugino. Sono stati negli stessi posti, hanno fatto le stesse strade, sia pure in tempi diversi, ma ad Asael, che partì senza sogni, tutto apparve mirabile. Per Abner, consumato dalla sua immaginazione, tutto fu inutile e quasi stanno per azzuffarsi. Asael ha dimenticato l'arte del silenzio. Dov'è il tuo sole, Abner? Dormimmo abbracciati fino all'alba. Mi poggiano sul petto le loro teste odorose di viaggiatori. Chi avrà ragione? Asael, e il mondo sarà bello. O Abner, che sia tutto un inganno. Dormono inquieti, tremando. I loro volti sotto la luna sono sconosciuti. Forse per questo la mia pietà è così tremenda. Quando cercano il mio corpo, nel sonno lascio che Abner faccia con me come il bambino lattante con la madre. E ad Asael permetto che mi nasconda la testa in grembo, perché attingano forza dal mio corpo non ancora deluso. So che per la legge è peccato, anche se io non sento nulla, e la mia schiva castità è intatta. Il mio corpo non è pronto per l'uomo. Prima dell'alba mi sciolgo dal loro sonno, che si è fatto greve. Asael ha chiesto in sposa una ragazza silenziosa. Abner si è allontanato nel deserto per spiare, non so quale colpa. Lo vedo avviarsi nel rigo azzurro dell'orizzonte. Fermati, Abner. Dietro di te vengono tutti i pomeriggi, tutti i giochi, i pupazzi, le rane e noi bambini. Con te viene la nostra giovinezza a morirti accanto. Che bel tipo sei, che romanzante meraviglia. Ah, che bel tipo sei, amata mia, amata mia. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.